Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Partiamo da un film. L'uomo senza sonno, con Christian Bale, l'ultimo Batman, tanto per intenderci. Protagonista della vicenda è un operaio che, dopo uno shock dovuto a un incidente, non riesce più a dormire. Rimane un intero anno senza chiudere occhio e man mano impazzisce, dimagrisce fino a ridursi a una specie di cadavere ambulante, perde il lavoro, perde la fidanzata, perde il lume della ragione. Succede anche nella realtà, la chiamano insonnia cronica. A lungo andare riduce la vita di una persona ad un vero e proprio inferno. Questo perché siamo programmati in un certo modo. Abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di bere, abbiamo bisogno di fare attività fisica, di muoverci e, chi più chi meno, abbiamo bisogno di dormire, di riposare. Ma cosa succede se anche la società stravolge i suoi ritmi? Se, come il personaggio di Christian Bale, improvvisamente diventa una società insonne? Per millenni, infatti, tutte le civiltà, con modi diversi, hanno affiancato il tempo del lavoro al tempo del riposo, in un ordine ben preciso e rispettato. Un riposo, intendiamoci, che non è solo sonno, stacco del lavoro, ma anche festa, incontro, celebrazione, scoperta dell'altro. Per noi occidentali, questo riposo è da sempre, da 2000 anni, rappresentato dal giorno della domenica. Ma per i cristiani questa domenica è qualcosa di più da staccare la spina. Eppure la domenica in questi ultimi anni è più che mai in crisi. Liberalizzazioni, aperture domenicali, un'idea di una giornata da dedicare sempre più allo shopping da una parte e altri che la riducono a semplice tempo libero o tempo vuoto. Si conclude proprio in questi giorni la campagna della Commissione Nuovi Stili di Vita della Diocesi di Padova, fatta in collaborazione con l'Ufficio Famiglia e l'Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi. Una campagna intitolata Domenica delle 3R, Relazioni, Riposo, Risorto. Ne parliamo tra pochissimo. Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa. Il giorno del Signore deve sempre essere vissuto come il giorno della liberazione, che fa partecipare all'adunanza festosa e all'assemblea dei primogeniti scritti nei cieli, e anticipa la celebrazione della Pasqua definitiva nella gloria del cielo. I cristiani si devono adoperare nel rispetto della libertà religiosa e del bene comune di tutti, affinché le leggi riconoscano le domeniche e le altre solennità liturgiche come giorni festivi. Spetta a loro offrire a tutti un esempio pubblico di preghiera, di rispetto e di gioia e difendere le loro tradizioni come un prezioso contributo alla vita spirituale della società umana. Ogni cristiano dovrà evitare di imporre, senza necessità, ad altri ciò che impedirebbe loro di osservare il giorno del Signore. È con noi in collegamento telefonico, carissimi ascoltatori, Don Adriano Sella della Commissione Nuovi Stili di Vita. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Una società insonne, incapace di alternare lavoro e riposo, che perde i suoi ritmi naturali, che cosa ci dobbiamo aspettare? Beh, ci dobbiamo aspettare quello che sta accadendo, praticamente un aumento continuo dello stress, portando poi a delle malattie anche serie, e poi soprattutto dei ritmi di vita tali che la gente non riesce più a sopportarli, e quindi praticamente nello stesso tempo si perde proprio quella capacità di vedere le cose in maniera molto differente, aumenta l'aggressività, la rabbia, lo stress. Ecco, tutto questo dobbiamo ammettere, dobbiamo percepire che alla fine praticamente è pianificato, da questo sistema che soprattutto non vuole che noi ci fermiamo a pensare, e questa è una situazione che mi preoccupa moltissimo. Cioè ci hanno strutturato la vita in maniera tale che siamo sempre più di corsa e alla fine praticamente non ci fermiamo mai a utilizzare un potenziale che è molto importante, che è peculiare proprio dell'umanità, il pensiero. lo diceva molto bene Paolo VI, proprio, che poi è stato ripreso anche dalla Caritas Veritate, da Benedetto XVI, che il problema della modernità è la mancanza del pensiero. E Benedetto XVI, nella Caritas Veritate, riprendendo questo, ci dice: ci vuole uno slancio del pensiero. Ecco, ma per fare questo bisogna proprio avere la capacità di fermarsi, di recuperare una dimensione della vita che ieri veniva vista anche un po' male nella linea della negligenza. Parlo della lentezza, lento, lentezza. Ecco, non era visto bene. Oggi, mentre, è diventata proprio una virtù. Abbiamo già, per esempio, dei siti che dicono la lentezza, l'arte del vivere meglio. Abbiamo dei gruppi che lavorano in Italia, ma anche qui a Padova, per esempio su Colli Ugani, che per esempio fanno escursioni con bambini, famiglie, ragazzi, giovani, adulti, con gli asini, perché l'asino, questo diciamo animale che era visto anche male, oggi ci aiuta a recuperare la lentezza e a osservare anche il paesaggio, a camminare scambiandoci esperienze, iniziative. Ecco, e tutto questo ci aiuta a fermarci, a pensare, perché qui sta proprio il potenziale del cambiamento, perché chi pensa diventa capace proprio di mettere in atto poi delle alternative, come per esempio, faccio un esempio molto concreto, la chiamano la disoccupazione creativa, cioè persone che di fronte al problema del lavoro, che è sempre più serio, grave per molta gente, ha messo in atto questo potenziale che è il pensiero e ha trovato delle forme nuove, dei lavori nuovi, socialmente utili e via dicendo. Ecco, qui sta proprio una svolta importantissima per noi umanità. Nel momento in cui utilizziamo il pensiero, allora riusciamo a trovare proprio delle strade nuove, delle alternative. Ma ribadisco che questo è pianificato dal sistema, non vuole che pensiamo, perché vuole che, e questo è l'obiettivo, no? Che tutti diventiamo manipolabili, dei robot, degli alieni telecomandati. Ecco, e lo vediamo per esempio quando andiamo a fare la spesa, che siamo telecomandati, e lo dicono anche le indagini, perché entriamo con una lista di cose da comprare e mediamente abbiamo comprato il doppio. Allora qui sta proprio la nostra capacità di fermarsi, di capire quello che sta accadendo e di mettere in atto la libertà, cioè la capacità proprio di fare le cose a partire dalla nostra responsabilità e mettendo in atto delle alternative che ci sono già, quello che noi chiamiamo nuovi stili di vita. Proprio su questo torneremo tra qualche istante dopo una breve pausa e presenteremo anche la campagna La Domenica delle 3R. A tra pochissimo. Il bene di tutti. Parliamone. Adesso basta sangue, ma non vedi, non stiamo nemmeno più in piedi, un po' di pietà. Invece tu, invece fumi, con grande tranquillità, così sta a me che devo parlare. Fidarmi di te. Domani, domani, domani, chi lo sa che domani sarà? Oh, oh, chi non lo so, quale Dio ci sarà? Io parlo e parlo solo per me. Va bene, io credo nell'amore, l'amore che smuove dal cuore, che ti esce dalle mani e che cammina sotto i tuoi piedi. L'amore misterioso anche dei cani e degli altri fratelli animali, delle piante che sempre che ti sorridono anche quando ti chini per portarle via. l'amore silenzioso dei pesci che ci aspettano nel mare. L'amore di chi ci ama e non ci vuol lasciare. Ok, ok, lo so che capisci, ma sono io che non capisco cosa dici. Troppo sangue qua e là, sotto cieli di lucide stelle e silenzi dell'immensità. Ma chissà se cambierà, oh, oh, oh, non so se in questo futuro nero buio forse c'è qualcosa che ci cambierà. Io credo che il dolore che ci cambierà. Oh ma, oh il dolore che ci cambierà. E dopo chi lo sa, se ancora ci vedremo dentro quale città, brutta, fredda, buia, stretta o brutta come questa, sotto un cielo senza pietà. Ma io ti cercherò, anche da così lontano ti telefonerò, in una sera buia, sporca, fredda, brutta come questa, forse ti chiamerò perché vedi. Io credo che l'amore è l'amore che ci salverà. Vedi, io credo che l'amore è l'amore che ci salverà. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti. Parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori, al bene di tutti parliamone, siamo in collegamento con Don Adriano Sella della Commissione Nuovi Stili di Vita, stiamo presentando la campagna ormai giunta al termine, la domenica delle 3R, riposo, risorto, relazioni, relazioni, riposo, risorto. Grazie per essere con noi Don Adriano. Grazie a voi. Ci spiega l'origine e la necessità di questa campagna? Beh, la necessità di questa campagna soprattutto viene da due, diciamo, situazioni che diventano poi degli appelli molto forti. Quello di recuperare la domenica come festa, perché vediamo proprio che la stiamo perdendo come momento di festa. E il secondo movente è stato anche la richiesta di lavoratori che sono costretti a lavorare, pensiamo alle commesse, ma anche tanti commessi costretti a lavorare la domenica e che dicono non riusciamo più a stare con la famiglia, a vivere la domenica in famiglia. E allora per questo abbiamo pensato a questa campagna, proprio per recuperare la dimensione della festa, salvaguardare la domenica come festa, e abbiamo pensato a queste tre R, che sono un po' le tre dimensioni fondamentali della domenica. Il giorno delle relazioni, ecco l'importanza allora di creare anche le condizioni affinché le persone, le famiglie possano ritrovarsi insieme, dedicare tempo alle relazioni, perché sappiamo com'è strutturata la vita settimanale, è veramente strutturata tra tanti impegni lavorativi e altri impegni di famiglia e via dicendo, e quindi abbiamo bisogno di un tempo che è la domenica proprio per dedicare alle relazioni. Poi la seconda dimensione è proprio il riposo, perché è molto importante da un punto di vista anche antropologico e anche biblico poi recuperare questa dimensione proprio del fermarsi, del staccare la spina, di avere tempo proprio di riposare anche a livello fisico, ma non solamente questo, anche il riposo inteso proprio nel senso proprio biblico è quello proprio di recuperare quella dimensione per esempio del pensiero che ci aiuta a rivedere un po' quello che stiamo facendo. Cosa avete fatto di concreto in questi mesi nei vostri gruppi di lavoro? Sì, noi abbiamo diffuso questa campagna a tutte le comunità parrocchiali E poi noi abbiamo, ci siamo impegnati ad animare questo andando nelle parrocchie. E ci siamo partiti con il mese di novembre, che abbiamo fatto un po' tutte le domeniche in varie parrocchie, dove praticamente animavamo le messe, e lì è stato anche bello perché dopo le messe incontravamo la gente, davamo il segnalibro, questi decalogo, 10 cose molto concrete da realizzare, e poi praticamente facevamo vedere anche il video che abbiamo fatto, che anche si trova anche in YouTube. Ed è, sono momenti molto belli questi, perché lo percepiamo dalla reazione della gente che dice: ah, finalmente arriva aria nuova. Ecco, si iniziano a respirare, a percepire. E poi facciamo anche, accanto a questo, facciamo anche quello dei semi dimenticati, perché c'è tutto l'impegno proprio anche della domenica a recuperare proprio questa dimensione del rapporto con l'ambiente, con la natura, che oltretutto chi ha contatto con la natura recupera queste tre dimensioni della relazione, riposo e risorto. E allora per esempio facciamo anche, consegniamo dei semi dimenticati, che sono dei cartoncini dove c'è la presentazione del seme e dove c'è il seme attaccato. Tutto questo coinvolge molto la gente. Ecco, questa è un po' un'attività che noi abbiamo fatto. So che avete anche fatto pressione, avete cominciato da una parte un dialogo, da una parte anche una pressione civile anche nei confronti delle autorità, delle istituzioni, per ostacolare, come si può dire, insomma, recuperare il valore della domenica andando contro le famose aperture domenicali. Esatto, sì, perché abbiamo lavorato a tre livelli: a livello personale, poi a livello comunitario, quando ci si mette assieme. E allora qui per esempio abbiamo sottolineato l'importanza di non andare a fare la spesa la domenica, noi l'abbiamo chiamato un no per tre grandi sì. Non è soltanto dire no, ma è veramente no, che serve no allo shopping domenicale, per dare spazio a tre grandi sì, che sono le relazioni, riposo, risorto. E abbiamo sottolineato l'importanza, perché alla fine siamo noi cittadini, come consumatori, che abbiamo un potere enorme, perché se non andiamo a fare la spesa domenica, vedono che non hanno vantaggi economici, e come molti hanno iniziato a chiudere, perché vedono che non ci sono vantaggi, no? E allora abbiamo questo potere. Poi chiaro, bisogna arrivare al terzo livello, che noi sottolineiamo, quello istituzionale. E allora insieme anche la Confesercenti abbiamo sostenuto quella campagna che è Libera la Domenica, che è proprio la raccolta di firme per fare una legge di iniziativa popolare per rivedere questa apertura liberalizzata, diciamo, di tutte le domeniche e di tutto il periodo dell'anno, no? Soprattutto alla domenica. Ecco, sono tre livelli molto importanti che noi abbiamo sottolineato e che lavoriamo. Gli ascoltatori di Blu Radio Veneto che ci ascoltano in diverse province della nostra regione, che ci stanno ascoltando, che vorrebbero fare qualcosa per salvaguardare la domenica, quali azioni concrete possono intraprendere, al di là ovviamente del non andare a fare la spesa la domenica? Sì, ecco, esatto. Azioni molto concrete è quello praticamente che la domenica dedicarla per esempio alle tre ore, e quindi per esempio dare più spazio alle relazioni, alla famiglia che si incontra, allo stare insieme tra gli amici, e anche poi praticamente creare dei spazi, perché è chiaro che diciamo i centri commerciali sono anche luoghi di aggregazione, perché molti vanno là anche per trovarsi. Allora noi dobbiamo creare dei luoghi alternativi, per esempio di aggregazione, di trovarsi, e così anche le comunità parrocchiali devono impegnarsi a fare questo, non solamente le messe, diciamo, dove la gente si ritrova, ma altri spazi, per esempio il pomeriggio, iniziative varie, no? Io ho visto per esempio iniziative che sono partite, per esempio adesso organizzare una camminata insieme, una biciclettata insieme, oppure organizzare per esempio dei pranzi comunitari nel centro parrocchiale per le famiglie, e tante altre iniziative proprio per aiutare, perché la gente ha bisogno di trovarsi e ha bisogno di spazi proprio di aggregazione. Ecco. Poi per esempio noi abbiamo suggerito anche per esempio per le famiglie la domenica recuperare questo rapporto col proprio territorio, quindi prendere la bicicletta oppure la camminata insieme come famiglia, adesso che si apre anche tutta la stagione, no? E quindi diventa un modo anche per rapportarsi col proprio territorio, perché a volte conosciamo dei luoghi molto distanti, facciamo chilometri e code di andata e ritorno e non conosciamo il nostro territorio, che ci sono delle cose anche molto belle, no? Insomma, il messaggio è: riprendiamoci la domenica, al di là di questi ingranaggi, al partire proprio anche da quello che c'è vicino e che magari abbiamo dimenticato. Esatto, sì. Grazie Don Adriano per essere stato con noi, per queste parole, grazie per la campagna che avete portato avanti quest'anno e per le iniziative future che farete a salvaguardia del giorno di festa, grazie. Prego. Carissimi ascoltatori, ci troveremo nuovamente la settimana prossima per un'altra puntata de Il Bene di Tutti Parliamone. Potete riascoltare tutte le puntate nel nostro archivio sul nostro sito bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato Il Bene di Tutti, Parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.